Preghiamo. Signore Gesù, grazie per il pastore Larry, grazie per quello che ha significato per la mia vita, Signore, per quel sostegno sempre presente che per me è ed è stato, Signore. Padre, io prego affinché tu possa adesso metterlo in libertà e che, Padre, tu possa dargli l'unzione che l'ha sempre accompagnato per trasformare i nostri cuori, per cambiarli, Signore, per darci il cibo che abbiamo bisogno per essere tuoi figli fedeli, Signore. Prego la tua benedizione anche su Noemi. Padre, dagli la concentrazione, la libertà necessaria anche per fare il suo lavoro, in nome di Cristo Gesù. Amen. Grazie, Noemi. Thank you very much. Grazie mille. I'm very excited to be here. Sono così felice di essere qui. It's my first time being in Italy. Ed è la mia prima volta qui in Italia. And I hope it's not going to be my last time. E spero che non sia l'ultima. As you can tell, I love Gianluca very much. Come potete capire, io davvero voglio a Gianluca un gran bene. And when he made the invitation for us to come, e quando mi ha invitato me e il gruppo a venire, I had to say yes. Io dovevo dire di sì. I have been a pastor for children for 37 years. Sono 37 anni che sono il pastore dei bambini. So you'll probably notice while I'm talking. Quindi di certo noterete mentre parlo. That I speak like a child. Che parlo come un bambino. I'm a simple man. Che sono un uomo molto semplice. But I love Jesus. Ma sono profondamente innamorato di Gesù. I've been married for 43 years. Sono sposato da 43 anni. And we have four children. E abbiamo 4 figli. And 10 grandchildren. E 10 nipoti. So, yeah, I know. Lo so. I mean, I love them. certamente voglio bene a tutti loro. And so I want to talk to you tonight about something Jesus said. Quindi vorrei parlarvi di un qualcosa che Gesù dice. Especially about children. In modo particolare sui bambini. But really he was saying it about us. Ma in realtà lui stava parlando di noi. And Jesus was talking with his disciples. E quindi Gesù stava parlando ai suoi discepoli. He was going to turn everything upside down. E stava per capovolgere tutto. He was going to make them think differently. Stava facendo in modo che i discepoli potessero incominciare a pensare in maniera diversa. And that's the challenge for us tonight. E questa è la sfida che è davanti a tutti noi questa that sera. We would be willing to think differently. Che noi possiamo essere volenterosi di cambiare il nostro modo di pensare. Because one day the disciples were talking among themselves. Perché un giorno i discepoli stavano parlando tra di loro. And they were wondering who was the greatest among them. E si domandavano chi era il più grande tra di loro. And they were starting to get kind of puffed up. E loro si stavano un po' dando delle aree. I mean, Peter was telling them, "Remember, I walked on the water." E Pietro stava raccontando, ma ti ricordi, io ho camminato sulle acque. None of you got out of the boat. E nessuno di voi è uscito dalla barca. I think I'm the greatest. E quindi io penso che sono il più bravo. And John said, "Yes, but I'm the one Jesus loves." Ma Giovanni dice, sì, ma io sono quello che Gesù ama di più. He lets me put my head on his shoulder. E lui mi permette di poggiare il mio capo sulle sue spalle. And so they're arguing back and forth about who's the best. E quindi sono lì che discutono su chi è più bravo, chi è il più grande. Isn't that what we do with each other? E non è esattamente quello che noi facciamo tra di noi? We kind of compare ourselves to one another. Quando ci paragoniamo l'un l'altro. Well, I'm better than that. Io sono migliore di lei. And we start to get competitive. E quindi incominciamo ad essere competitivi. So the disciples decided to ask Jesus. E quindi i discepoli incominciano a domandare a Gesù. Jesus, which one of us is the best? Allora Gesù, chi di noi è il migliore? He's going to pick me. Lui sceglierà me, sicuro. And Jesus looks at them. E Gesù li guarda. Like, serious? E dice, ma siete seri? Really? And so Jesus decides to answer them in a very strange way. E quindi Gesù decide di rispondere al loro quesito in una maniera molto particolare, molto strana. In Matthew 18, in Matteo 18, when the disciples come to him, quando i discepoli vanno da Gesù, the Bible says Jesus separated the disciples. La Bibbia dice che Gesù ha separato i discepoli. And he reached down and he got a little child. E ha preso per mano un piccolo bambino. And he brought this little one and stood him in the circle of the disciples. E lo ha avvicinato e lo ha messo proprio al centro di tutti i discepoli, tra tutti i discepoli. And the little guy is looking up at all of these men. E il bambino sta lì che si guarda attorno a tutte queste persone così grandi. And they're looking down at him. E i discepoli che guardano verso il bambino. Like, who is this? E si chiedono, chi è? And Jesus said, unless you change. E Gesù dice, a meno che voi non cambiate. And become like a little child. E diventiate come questo piccolo bambino. You will never enter the kingdom of heaven. Voi non entrerete nel regno dei cieli. You know, that's hard for us to understand. E questa è una cosa abbastanza complicata da comprendere per noi. Because all of our lives we've tried to be grown up. Perché è da una vita che cerchiamo di crescere. We've been told, act like an adult. E persone ci hanno detto, ma comportati da adulto. Take responsibility. Prendi le tue responsabilità. Be mature. Sii maturo. Grow up. Cresci per una volta. Yeah. Have you heard this? L'avete ascoltato? Yeah. Avete sentito questo? Yeah. And yet Jesus is saying, ma poi Gesù dice, aspetta un attimo. Become like a child. Diventa come un bambino. Now this is very difficult for men. Ora questo è molto difficile per gli uomini. Because we've worked very hard not to become like a child. Perché noi ci siamo davvero impegnati a non essere, per non essere come bimbi. And sometimes we hear our wives say to us. E qualche volta abbiamo le nostre mogli che ci dicono. You're worse than the children. Sei peggio dei bambini. You're acting just like a child. Ti stai comportando proprio come un bambino. Has she said that to you? E vostra moglie ve l'ha mai detto? Yeah, okay. Well, see, Jesus told us to be like that. Ma il fatto è che Gesù ci ha detto di essere come i bambini. So this is the difficulty for us. Quindi questa è una difficoltà per noi. We want to be mature. Noi vogliamo essere maturi. But Jesus says to humble yourself. Ma Gesù ci chiama a essere umili. And to become like a child. E a diventare come dei bambini. See, God is working in us to change us. Vedete, Dio sta operando nelle nostre vite per cambiarle. And to be like a child, there are several things we need to remember. E per essere come un bambino, dei bambini, ci sono diverse cose che dobbiamo ricordare. See, I became a believer when I was only 5.5 years old. Vedete, avevo solo 5 anni e mezzo quando ho accettato Gesù. I walked into a church for the very first time at 5 years old. Avevo 5 anni quando sono entrato per la prima volta in una chiesa. And I heard the story of Jesus. E quindi ho sentito la storia di Gesù. And I remember leaving my family and walking up to the front. E mi ricordo che mi sono allontanato dalla mia famiglia per venire avanti. And I said to the pastor, I want Jesus. E io ho detto al pastore, io ho bisogno di Gesù, lo voglio. And I've been following him every day since then. E da quel momento in poi ho seguito Gesù per tutta la mia vita. So when Jesus says become like a child, quindi quando Gesù dice diventate come bambini, I remember what that simple faith was like. Io mi ricordo com'era quella fede così semplice, così. And by the time I was a young man, e quando poi sono cresciuto un po', God had called me to ministry. Allora Dio mi ha chiamato a servirlo al ministerio. And I began to understand God's plan for my life. E quindi ho incominciato a comprendere il piano che Dio aveva per la mia vita. And I began to understand the first thing about being a child. E ho incominciato a comprendere la prima cosa che è necessaria per essere come un bambino. To be a child of God, you have to understand that our Father is in control. Essere figli di Dio vuol dire comprendere che Dio ha il controllo. Children know that their father is the boss. I bambini sanno che il papà è a capo di tutto. He gets to make the decisions and he's in control. Che il papà ha il controllo e prende e fa delle decisioni. And as a child of God, we have to say, "My Father is in charge." E quindi, in quanto figli di Dio, noi dobbiamo dire, "Mio Padre è al controllo." He is in control of every area of my life. Lui ha il controllo di ogni area della mia vita. I may not understand every decision he makes. Probabilmente non sarò in grado di comprendere ogni decisione che prende. I may not like every decision he makes. Forse non mi piacerà ogni decisione che lui farà. But he is in control. Ma lui è al controllo. I remember after my daughter was born. Mi ricordo dopo che mia figlia è nata. I was in Bible school and we had very little money. Io frequentavo la scuola biblica e avevamo davvero poco denaro. My oldest son was disabled. Il mio figlio più grande aveva un handicap. We had no money. E quindi non avevamo soldi. Now we have a second baby. E adesso abbiamo una seconda figlia. And 2 weeks later I began to get sick. E 2 settimane dopo mi sono ammalato. I went to the doctor. E quindi sono andato dal medico. They did some tests and some surgery. Mi hanno fatto degli esami e delle piccole operazioni. And they decided that I had a very difficult cancer. E hanno riscontrato che io avevo un tumore molto molto serio. And they said, "We can't do anything for you." E mi hanno detto, "Noi non possiamo fare niente per te." You have a year, maybe a year and a half to live. Forse hai un anno, forse un anno e mezzo di vita. I said, "God, you're supposed to be in charge." E io mi sono detto, Dio, tu dovresti essere al controllo. What are you doing? Che cosa stai facendo? I don't understand this decision. Io non capisco la decisione che hai preso. And that's when I began to learn that God is sovereign. Ed è in quel momento che ho incominciato a comprendere che Dio è sovrano. I have to trust him as my father. Che dovevo fidarmi di lui perché lui è mio padre. He's in charge of my life. E lui ha il controllo della mia vita. Yeah. Some of you may be in a situation. E molto probabilmente qualcuno di voi è nella situazione. That's something you didn't expect. Nella quale c'è qualcosa che proprio non vi aspettavate. Something difficult suddenly came into your life. Che state affrontando qualcosa di molto difficoltoso che è venuto d'improvviso nella vostra vita. And you're saying, "God, what are you doing?" E state dicendo, Dio, ma cosa stai facendo? Why is this happening to me? Ma perché questo sta succedendo proprio a me? This is where we learn. Ma questo è quello che impariamo. That he's our father. Che lui è nostro padre. He's in control. È in queste circostanze che capiamo che lui ha il controllo. I'm going to trust him. E quindi ci fidiamo. The second thing that a child learns. La seconda cosa che un bambino subito impara. Is that everything we have belongs to him. Vedete che ogni cosa che noi abbiamo appartiene al padre. When a child is working in the home. Quando un bambino sta lavorando in casa. Everything around him really belongs to his father. In realtà tutte le cose che tocca appartengono al padre. And they know clearly, My dad owns everything. E loro capiscono e sanno perfettamente che è al padre che appartiene tutto. As believers, we have to say, God, you own everything. E quindi come credenti noi dobbiamo essere in grado di dire: Dio, a te appartiene tutto. You own me and my life. A te appartiene la mia stessa vita. My family, my possessions. È a te che appartiene la mia famiglia e tutto ciò che io posseggo. Everything belongs to you. Tutto, tutto appartiene a te. And I remember with cancer laying on my hospital bed. E io mi ricordo con questo tumore ero sul letto in ospedale. Learning this lesson. Che stavo imparando esattamente questa lezione. As I imagined leaving my family. Quando ho immaginato che avrei potuto lasciare la mia famiglia. Leaving them without a father or husband. Lasciare i miei figli senza padre, mia moglie senza marito. Leaving the debts and the problems with my wife. Lasciare i debiti e tutti i problemi che c'erano nella mia vita. And I had to learn. Io ho dovuto imparare. God owns everything. Che a Dio apparteneva tutto. He owns my family. Che a lui appartiene la mia famiglia. All my possessions belong to him. Tutto ciò che io possiedo appartiene a lui. To be a child of God. Essere un figlio di Dio. In your circumstance. Nelle tue circostanze. You have to say, God, you own all this. Ti porta a dire, ok, Dio, a te appartiene tutto. I can't keep it for myself. Io non posso trattenerlo e tenerlo per me. The third thing a child understands. La terza cosa che un bambino subito comprende. Is that their father will provide what's needed. È che il padre provvederà a tutto ciò che loro necessitano. Children living in their home know that dad's going to bring home something to eat. I bambini a casa sanno che il padre arriverà e porterà qualcosa da mangiare per loro. God's going to, or their dad's going to provide a home and clothes. Loro sanno che è il padre che provvederà per loro una casa, dei vestiti. And as children of God, e quindi in quanto figli di Dio, we have to learn that my father will provide everything I need. Dobbiamo comprendere che Dio provvederà a tutto ciò che noi necessitiamo. I learned that lesson when I was very sick. Io ho imparato questa lezione quando ero davvero molto malato. I was not able to work. Non potevo lavorare. We had no money to pay for the medical bills. Non avevamo i soldi per poterci permettere i medicinali. I didn't know where the food was going to come from. E non sapevo da dove il cibo dovesse venire, potesse venire. But God was so faithful. Ma Dio è stato così fedele. We would open the door of the house. Noi è capitato che abbiamo aperto la porta di casa. And find a box of food on the porch. E abbiamo trovato del cibo sull'uscio. A card would come in the mail with some money. Abbiamo ricevuto dei soldi nella posta. My father was providing everything I need. Mio padre stava provvedendo a tutto ciò che avevo bisogno. In your situation, quindi nelle tue circostanze, you cannot trust your own pocket. Tu non puoi fidarti di ciò che c'è nelle tue tasche. To be a child of God, ma in quanto figli di Dio, you have to trust that God will provide what you need. Dobbiamo avere fiducia e sapere che Dio provvederà ad ogni nostro bisogno. The next thing a child learns. La seguente cosa che un bambino impara. Is their dad can do anything. È che il padre può fare tutto, è capace di fare tutto. I remember when my children were little. Io mi ricordo quando i miei figli erano abbastanza piccoli. Probably like some of you. Forse come voi anche potete vedere, potete riscontrare. My children thought I was bigger than any other dad. I miei figli pensavano che io ero il più grande di tutti gli altri papà. I was stronger and smarter than anybody else's dad. Ero il più forte e il più intelligente di tutte le persone. If something was broken, that I could fix it. Che se qualcosa si rompeva, io potevo aggiustarla sempre e comunque. Have you ever had that? L'avete mai sperimentato? Yeah. Yeah. And then they grew up and they discovered I was not. E poi sono cresciuti e hanno capito che in realtà non era questa la realtà. But I learned that lesson. Ma io ho imparato quella lezione. When I continued to get sicker and sicker. Quando mi stavo ammalando sempre di più, sempre più gravemente. And there was nothing the doctors could do. E non c'era niente che i medici potevano fare. And we called out to God. Allora noi abbiamo gridato a Dio. And my father who can do anything. E mio padre che può fare tutto. Miraculously healed my body. Mi ha guarito, ha guarito il mio corpo miracolosamente. Within 1 week the doctors looked at my body again. E in una settimana che i medici hanno visto il mio corpo. After having been in the hospital and in and out of hospital for 3 months. Dopo essere entrato e uscito dall'ospedale per tanti mesi. They looked at those tests. Hanno guardato gli esami, i risultati degli esami. And they said, "We don't understand." E hanno detto, noi non capiamo. Our great God healed my body. Il nostro grande Dio ha guarito il mio corpo. He saved my life spiritually when I was 5 years old. Ha salvato la mia vita spiritualmente quando avevo solo 5 anni. And when I was 25 years old, he saved my life physically. E quando avevo 25 anni ha salvato la mia vita fisicamente. My father can do anything. Mio padre, per mio padre niente è impossibile. I don't know what situation you're facing. E quindi io non lo so quale circostanza stai affrontando. But Jesus said, with man this is impossible. Ma Gesù dice per gli uomini questo è impossibile. But with God all things are possible. Ma per Dio tutto è possibile. Amen. Amen. Amen. God wants to change the way we think about things. Dio vuole cambiare il nostro modo di vedere le cose. He said, "Humble yourself." Lui ci dice, sii umile. Don't try to be in control yourself. Non cercare di avere il controllo di te stesso. Don't try to keep all the possessions for yourself. Non cercare di trattenere tutto quello che hai, tutto ciò che possiedi. Remember, he's in charge. He owns everything. Ma ricorda, lui è al controllo e a lui appartiene tutto. He will provide for you. Lui provvederà per te. And he can do anything. E per lui nulla è impossibile. He wants us to change. Per questo lui vuole che noi cambiamo. I travel with this little wooden carving. Io viaggio e mi porto sempre dietro questo pezzo di legno. I keep it in my suitcase always. Lo tengo sempre nella mia valigia. It's a reminder to me of what God wants to do in my life. Ed è un qualcosa che mi ricorda ciò che Dio vuole fare nella mia vita. He wants me to change. Lui vuole che io cambi. See, when this board, when this piece of wood began, vedete, all'inizio questo pezzo di legno, it was flat and square. Era piatto e quadrato. And an artist picked it up. E poi un artista l'ha raccolto. And he looked at this ordinary board. E ha guardato a questo semplice pezzo di legno. And he said, "I have a plan for this board." E ha detto, "Io ho un piano per questo pezzo di legno." And he took it and he sketched with a pen. He sketched out some hands praying. E quindi l'ha preso e ha incominciato a disegnare la sagoma di due mani congiunte che pregano. And the board looked at that drawing. E il pezzo di legno ha guardato quel disegno. The board was very excited. E il pezzo di legno ha incominciato ad essere molto felice. I'm gonna be praying hands. E ha detto, ma sto per essere trasformato in delle mani che pregano. I'm gonna be beautiful. Oh, sarò bellissimo. I'm gonna inspire people to pray. e incoraggerò persone a pregare. God has such a good plan for me. Dio ha dei piani così grandiosi per me. And then you know what the artist does? E poi lo sai quello che l'artista fa? He takes the wood. Prende il pezzo di legno. He gets out a tool. Prende uno strumento. E incomincia a tagliare, a tagliare, a tagliare. And the board's going, "What are you doing?" E il pezzo di legno fa, "Ma cosa stai facendo?" I don't like this. Non mi piace questo. This hurts. Fa male. It's painful. È doloroso. Stop. Basta. But don't you want to be a beautiful carving? Ma non vuoi diventare una bellissima opera d'arte? Yes, but I don't like the process. Sì, ma davvero non mi piace il processo. And our father says, "I must do this." E nostro padre ci dice, sì, io devo fare. Because I want you to change. Perché voglio che tu cambi. And then he takes a different tool. E poi prende un altro strumento. It's very pointed and sharp. Ed è molto appuntito e affilato. And he begins to dig down in. E incomincia a scavare sempre più a fondo. And it hurts really deep. E fa male così profondo. And God is working in you deep in your heart. E qui c'è Dio che sta operando profondamente nei nostri cuori. And it's painful. E fa male. He's touching your character. Fa male perché sta toccando il tuo carattere. He's changing your nature. Sta cambiando la tua natura. He has a plan. Lui ha un piano. He wants you to change. Lui vuole che tu cambi. And finally he takes the sandpaper. E poi alla fine prende la carta vetrata. He begins to rub all over. E incomincia a lievigare tutto. All of the rough spots become smooth. Tutte le parti grezze incominciano ad essere lievigate. He brings people into your life. E quindi Dio qui Dio porta persone nella tua vita. That challenge you or frustrate you. Che ti danno un po' fastidio, che sono difficoltose. Difficult situations. Delle situazioni difficili, ardue. Because he's working out those rough places in your life. Perché Dio sta lievigando tutte quelle parti grezze nella nostra vita. See, God has a plan. Perché Dio ha un piano. He wants to make something out of your life. Lui vuole fare una cosa speciale, importante nella tua vita. And he may use a sickness, e lui forse usa una malattia, a financial problem, un problema economico, a relationship problem, dei problemi a livello relazionale. All those things God is using in your life to tutte change. Tutte queste cose Dio le sta usando per cambiarci. And instead of trying to do it yourself, e invece di provare a cavarcela da soli, to be an adult and take care of the problem on your own, di essere persone adulte e cercare di portare una soluzione a tutti i problemi da noi stessi, he says, "I want you to humble yourself." Lui dice, io voglio che tu sia umile. I want you to become like a child. Voglio che tu diventi come un bambino. And trust your father. Voglio che tu ti fidi di tuo padre. To do something miraculous in your life. Perché lui può fare qualcosa di miracoloso nella tua vita. Amen. Amen. Amen. The last thing I want to say about a child. L'ultima cosa che voglio dire riguardo ai bambini. You know how children want to be like their father. Sapete come i bambini vogliono essere come i propri padri? Sometimes when I was talking to a friend or standing somewhere, molte volte quando magari parlavo con un amico e assumevo questa posizione, I would notice my son, io vedevo mio figlio, looking at me and putting che his hand, mi guardava e metteva le braccia così come ce le avevo io. He wanted to be like dad. E lui voleva essere come papà. You see, that's what we should be doing. Vedete, questo è come noi dovremmo essere. As children of God, in quanto figli di Dio. Saying, "God, I want to be like you." Dire, Dio, io voglio essere come te. I want to be like Jesus. Voglio essere come Gesù. Change me. Cambiami. Work in me. Opera in me. Do whatever you need to do. Fai ciò che hai bisogno di fare. To teach me how to be a child of God. Per insegnarmi ad essere un figlio di Dio. God has a plan for you. Dio ha un piano per noi. And the situation you're in now, e le situazioni che stai affrontando in questo momento, it's not a mistake. E non sono un errore. It's not a surprise to God. Dio non è sorpreso. It's an opportunity for you to change. Ma è un'opportunità per ognuno di noi di cambiare. To be more like Jesus. Di essere trasformati più simili a Gesù. To change for our good. Di cambiare per il nostro bene. And for his glory. E per portargli gloria. Let's pray. Perché non preghiamo? Father, we want to be children. Padre, noi vogliamo essere come bambini. It's so opposite. Ed è così il contrario di quello che noi siamo portati a fare. But God, we want to be obedient to you. Ma Dio, vogliamo essere ubbidienti alla tua volontà. And learn to trust you as our Father. E vogliamo avere fiducia di te perché sei nostro Padre. So God, I pray for this people. Quindi Dio, ti prego per questa chiesa. For every individual in this room. Per ogni individuo in questa sala. Who may be in a difficult situation. Che forse sta affrontando una situazione difficile. But I pray that they will lift up their eyes. Ma io prego che loro possano alzare il loro sguardo. Above their circumstance. Al di sopra delle circostanze. And lift their eyes to see our great Father. Possano alzare i loro occhi e vedere quanto grande è nostro Padre. God, help us to trust you. Dio, aiutaci a fidarci. To remember that you are in control. A ricordarci che tu sei al controllo. That you own everything. Che a te appartiene tutto. And you will provide what we need. Che tu provvederai ad ogni cosa di cui noi necessitiamo. And you will do the miraculous. E che tu puoi fare miracoli. God, we are your children. Dio, noi siamo i tuoi figli. And we trust you. E noi ci fidiamo di te. Change us in Jesus' name. Cambiaci nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amen.